Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, stasera l'Inter, domani sera il Napoli, partendo da presupposti molto diversi dopo le partite d'andata, ma entrambe con un'insidia, che è quella di dover affrontare squadre cui non è rimasto molto altro che la speranza di questi quarti di Coppa. Chi sta meglio e chi sta peggio ce lo dite il ministro degli esteri Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Ma tra il Chelsea e il Marsiglia, direi il Chelsea anche solo per i risultati che ha ottenuto, non cose eclatanti, è un passaggio di turno in FA Cup e una vittoria 1-0 in Premier League, ma rispetto allo 0-4, cioè 4 sconfitte consecutive senza segnare un gol del Marsiglia, diciamo che parliamo di una leggera tosse rispetto a una polmonite. Sì. Senti un po', sta leggera tosse, come la sta curando Di Matteo? Perché in fondo è un giocatore che conosciamo bene, era il vice di Villas-Boas. Quando Villas-Boas ha salutato la compagnia pochissimo tempo fa, ha ereditato la gestione diretta ed è la novità principale con cui il Napoli si misura domani sera. Guarda Gigi, mi verrebbe da dire con i rimedi della nonna, cioè con quelli antichi, e cioè affidandosi ai senatori, affidandosi ai Mamma Santissima, no? Affidandosi a quelli che Villas-Boas aveva un po' messo da parte, non completamente, perché non è che Lampard, Terry e Drogba non giocassero mai, hanno avuto tutti più o meno qualche infortunio, qualcuno come Drogba ha avuto anche la Coppa d'Africa, quindi di fatto Villas-Boas alcune volte non li ha potuti avere, ma fondamentalmente li aveva relegati in un angolo, o quantomeno non gli aveva dato lo stesso peso che invece gli aveva dato José Mourinho anni fa e comunque tutti coloro che sono venuti dopo Mourinho. Quindi per il momento sta facendo la cosa più facile, nessuna rivoluzione, mettere in campo quelli che stanno meglio, rinuncia definitiva direi a Fernando Torres che continua a non pervenire, a questo punto chissà se perverrà mai, conferma di Drogba che è il totem del Chelsea, anche se storicamente Drogba quando la stagione va verso i primi caldi in Champions League non combina mai niente di buono. Mata è il giocatore più talentuoso, Sturridge è il giocatore che sta meglio e per il resto credo che si affiderà al tentativo di una serata non miracolosa, perché il passaggio del turno del Chelsea non sarebbe un miracolo, ma una serata che di fatto potrebbe presentare o dovrebbe presentare il miglior Chelsea dell'anno, perché il Chelsea se gioca da Chelsea per come l'abbiamo visto da agosto ad oggi non ha alcuna possibilità di passare contro il Napoli di adesso. Tant'è vero che forse la miglior mezz'ora del Chelsea stagionale, una delle migliori, è stata proprio la prima mezz'ora di Napoli. La prima, esattamente. E poi lentamente si è squagliato, ma anche perché la forza è stata la forza del Napoli a squagliarla, e difatti poi domani sera tutto dipenderà, per il mio, non tanto dalla tenuta della difesa napoletana quanto dalla capacità di ribaltare e di andare giù a fargli un gol in contropiede, che a quel punto li smonta definitivamente, anche se bisogna stare attenti, perché tu hai risposto la ricetta della nonna, no? E in genere la ricetta della nonna, i vecchi eccetera, e quelle sono le più efficaci tuttora, quindi perlomeno nel calcio, quindi bisogna starci indubbiamente attenti, ma il Napoli lo sa e da questo punto di vista dubbi non ce ne sono. Attualizziamo, perché ci siamo proiettati su domani, che il Marsiglia sia in crisi, questa è una certezza. Che cosa può cambiare rispetto all'andata? Ora, l'andata si è risolta poi a tempo scaduto con quel gol incredibile in una partita in cui qualsiasi liberatore del mondo avrebbe scommesso dopo un quarto d'ora che nessuno segnava, e invece alla fine è arrivato quel gol indubbiamente beffardo che adesso condiziona pesantemente il ritorno. Il Marsiglia, leggo che c'è qualcuno forse che può recuperare. Il Marsiglia recupera Remy e recupera Valbuena, che sono due giocatori di grande grande talento. Rispetto all'andata queste sono due addizioni pesanti per Deschamps. La cosa curiosa che dicevo prima è che il Marsiglia non ha veramente più segnato da quel gol al 93esimo di Ayew, quindi la porta non l'ha veramente più vista. Remy è il giocatore più dotato dal punto di vista dell'attacco, è un giocatore di buon passo, un giocatore giovane perché comunque è dell'87 ed è un giocatore che però è fermo da qualche giornata, e quindi non so sinceramente in che condizioni sarà. Detto questo, la sensazione, avendo sentito Deschamps ieri sia in conferenza stampa che nell'intervista one to one che ha concesso a noi, mi dà proprio la sensazione di venire a San Siro per tenere quasi tutti dietro la linea della palla, aspettare l'Inter, probabilmente sperando anche in una certa dissennatezza dell'Inter, cioè sperando magari in un assalto all'arma bianca sin da subito, no? Di quelli con Lucio che si dimentica che è un difensore, sì. Maicon che fa la destra dal primo minuto. E questo sarebbe il gioco che credo Deschamps vorrebbe, perché gli darebbe molti più spazi, cioè se le spaziature dovessero diventare abbondanti nei quattro della difesa dell'Inter, ecco che allora il Marsiglia potrebbe avere un po' di campo per il contropiede. Molta attenzione a Valbuena, che è un giocatore che a me piace moltissimo, palla a terra, è uno che la passa davvero con il contagiri, quindi grande attenzione da parte dell'Inter. Credo che l'Inter abbia bisogno di una partita molto assennata, non di una partita da assalto all'arma bianca, da baionetta. Certo. Senti, noi qua siamo alle prese con i tifosi del Marsiglia, perché insomma, essendo la serie Radio 24 in zona San Siro, ci sono già alcuni avamposti, no, di tifo marsigliese che stanno dirigendosi verso lo stadio. Tu, lo volevo dire a beneficio degli ascoltatori, non sei alle prese con Lia Capizio, con una delle tue partner di Sky Sport 24, bensì con Vittoria, la secondogenita. Sì, è un ritorno. Di Vittoria, mi auguro che sia ben augurante il suo nome per le squadre italiane. Certo. Oggi Vittoria è qui in sede di commento, sì. E insomma, quando parlavo prima di tosse mi riferivo a situazioni, certo, familiari, se perché peraltro non riguardano anche il papà, per cui. Ah sì, senti, sì. Comunque se ci sono problemi di gestione, cosa, io posso mandare delle voci e tu nel frattempo servire lo sciroppo alla piccina. No, guarda, lei qua tranquilla, abbiamo un accordo, ha detto che è in silenzio stampa come la Juve domenica e quindi non parlerà durante il Senti, allora completiamo il panorama della serata, perché c'è un'altra rimonta attesa oltre a quella dell'Inter ed è quella del Bayern, che era caduto a Basilea veramente in maniera inopinata e gli era andata anche molto bene a limitarsi al minimo scarto, però non riesco a immaginare stasera alle 22:40 un Bayern che va fuori al Basilea, onestamente. No, io no, sinceramente faccio anche un filino di tifo, perché il Bayern di Monaco deve andare ai quarti di finale per renderli un po' più nobili, diciamo che la tassa, con molte virgolette, ce l'abbiamo già, e che è l'APOEL, per carità, una tassa piacevole di questi tempi, le tasse, però io credo che il Basilea sia una squadra comunque molto molto complessa. La partita dell'andata è stata molto diversa, quella di Basilea rispetto a quella di Marsiglia, perché poteva veramente finire tanti a tanti e invece poi è finita semplicemente 1-0. Il Bayern si è allenato benissimo contro l'Hoffenheim, ha rivisto un eccellente Robben, è tornato ad avere Gomez, che è curioso che quando segna ne fa o due o tre. Sì, è vero, per meno non si esibisce, non si, esatto, concede lui. Quando ne fa uno bisogna stare attenti, perché ce n'ha in canna con un paio. Io credo che il Bayern questa sera farà una grande partita, quindi mi aspetto di avere il Bayern ai quarti, perché oltretutto loro hanno la finale in casa, quindi mi sembra una motivazione forte. Però occhio, perché il Basilea non sbaglierà la partita e poi le partite possono anche impazzire, ma se il primo quarto d'ora, se nel primo quarto d'ora non succedono cose eclatanti a favore del Basilea, credo che il Bayern questa partita e la qualificazione la debba portare a casa. Questo è il programma di Coppe, come è stato delineato in compagnia di Fabio Tavelli, per stasera e per domani sera. Mi restano un paio di argomenti. Uno è il sorpasso dello United sul City in Inghilterra, avvenuto in una giornata in cui tutto sommato era abbastanza inatteso. Parliamo di due squadre che in Europa quest'anno, anche in Europa League, stanno davvero deludendo oltre ogni aspettativa. Ed è curioso vedere, no, che lo United in particolare, ma insomma che due squadre di questa caratura se la debba giocare nell'orticello di casa. È un sorpasso, non dico definitivo, ma quasi, oppure secondo te è solo una tappa? No, io credo di no, credo che non sia definitivo, anche perché poi il City avrà il derby in casa, ha già vinto il derby fuori all'andata nettamente, quindi ha ancora una carta pesante, lo ha ricordato anche Mancini. L'esperienza dello United potrebbe anche fare un po' di differenza. Credo che arriveranno tutte e due un po' stanche alla fine, nonostante ci siano molti giovani in entrambe le squadre. Sono molto curioso di vedere anche la tenuta nervosa da parte del City, che da parte di molti commentatori, un po' tutti, è sempre stata considerata quella in pole position perenne dalla prima giornata di campionato. Credo che potremmo continuare ad assistere a sorpassi contro sorpassi nelle ultime giornate, perché sinceramente non ne vedo una delle due che adesso prende il cappello e se ne va, per cui sì, credo proprio che finirà in volata, anzi con tutta probabilità si deciderà tutto nel derby. L'ultima cosa è una notiziola che ho letto sul supplemento internazionale della Gazzetta di stamattina e che era data con un certo stupore, e cioè il fatto che in Francia negli ultimi giorni ha fatto più audience, 6,7 milioni di ascoltatori, di telespettatori, Francia-Irlanda di rugby, che non 6,5 Francia-Germania di calcio, a parità di grandi avversari, perché uno è 5 nazioni, l'altro comunque è un derby, no? Come comunque una partita sentitissima come quello con la Germania, pare che questo abbia fatto sensazione, e mi ha stupito un po' la sensazione, perché insomma io ricordo qualche decennio fa in Francia la domenica pomeriggio, per esempio, non tutto il calcio minuto per minuto, ma tutto il rugby minuto per minuto, quindi non so, è questo stupore che mi lascia un po' stupefatto. No, beh, guarda, fino a mezz'ora fa la prima pagina dell'Equipe versione online era dedicata agli allenamenti della nazionale francese e non a quelli del Marsiglia, per cui onestamente in Francia e in Inghilterra devo anche dirti che io costantemente vedo i canali inglesi mentre sono in conduzione, vedo Sky Sport, che sono i nostri di fatto cugini inglesi, e tante volte mi sorprendo nel vedere le loro breaking news, perché sono delle breaking news che per me sono incomprensibili, perché ci sono dei nomi di personaggi dello sport che per me sono sconosciuti, e magari è la notizia del capitano del cricket dell'Inghilterra che ha fatto una dichiarazione prima di giocare contro lo Sri Lanka. Sono cose francamente impensabili da noi. Tra l'altro è molto curioso e significativo il tuo lapsus, perché l'hai chiamato 5 nazioni, però perché questo inserimento dell'Italia resta molto complesso. Hai ragione, e ci devono essere pochi rugbisti in ascolto oggi, perché sì, ecco, sto vedendo i primi 2-3 messaggi adesso, sei nazioni. Devi dare tempo alla tastiera. Adesso si scateneranno, adesso certamente. Vabbè, però purtroppo il lapsus è scappato, ma devo dire che non è poi, ho l'impressione che non sia stato così, no? No, proprio arrampicato per aria, esatto, così a spalle. Esatto. Anche se sabato c'è questa leggendaria sfida per evitare il cucchiaio di legno, intendiamoci, che non capita mai, no? Praticamente non... È un inedito, caro. È un inedito. Inedito, e come le cose inedite avrà un grande... Certo. No, ma adesso al di fuori della metafora dello scherzo... Sì, le battutelle. Cioè, secondo me noi non... Per carità, si può anche un po' canzonare questa situazione, e ci sta tutto. Detto questo, se 30.000-40.000 persone vanno allo Stadio Olimpico per vedere una cosa che non sia il calcio, ed è una cosa nella quale si gioca a palla, è comunque positivo. Beh. E quindi la crescita complessiva passa anche dalle sconfitte. La Francia credo ci abbia messo più di 20 anni per vincere un torneo delle 6 nazioni. Sì. E quindi ci può. E che era, a quel punto era delle 5. Era delle 5 ancora, era infatti. Era delle 5. Senti, stavo anche leggendo, forse questo mi ha favorito il lapsus, stavo leggendo tanti messaggi, ma il più carino di Egidio da Padova, che sostiene che Vittoria ha una vocina dolcissima, per quel che si sente in sottofondo, e quindi questo forse mi aveva un pochino distratto. Salutala, un bacio da parte di tutti noi, alla piccina, e a presto Fabio, anzi a giovedì. Grazie. Per il bilancio di questa doppia Grazie, serata. Gigi, saluto a tutti anche da Vittoria, ciao. Aspetto adesso i vostri interventi in diretta, ovviamente su argomenti non soltanto internazionali. Vedo dai messaggi sul display che la lingua continua a battere dove le carie, dove qualcuno coltiva le carie, no? anziché curarle. Poi ci sono invece altri messaggi. Per esempio Ulisse scrive: grande Inter in primavera e Snyder il suo profeta. Beh, insomma, la primavera deve ancora comincerà mi pare il 21, no? Di marzo, manca ancora qualche giorno. Non dimenticherei la pena di Verona, comunque, perché è vero che l'Inter, alla fine, quella partita dell'Inter non ha rubato nulla, era stata sfortunata prima, la traversa, rigore sbagliato, eccetera, ma se parliamo di qualità, insomma, io non credo che la partita di Verona col Chievi, pur vinta col Chievo nel finale, potrebbe bastare stasera. Non perché il Marsiglia sia una squadra molto molto più forte del Chievo, ma perché insomma, si gioca un altro obiettivo, si gioca qualcosa di più importante, e soprattutto ha una ragguardevole esperienza internazionale. Un ascoltatore campione, e poi sentiamo delle voci molto interessanti a parer mio. Giorgio da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. ragione lei, dottor Garanzini. Di solito iniziano tutti dicendo io sono imparziale, eccetera, eccetera. Io invece ammetto di essere parziale, non fosse altro perché ho a cuore i colori viola e quindi la Juventus. Meglio così, Giorgio, qualunque siano i suoi colori, meglio così, perché se è degli imparziali che diffido in genere. Sì, ecco, perché quindi essendo viola io non posso avere in grande simpatia la Juve, no? Ma onestamente a me danno molto fastidio queste manie di persecuzione a domeniche alterne, no? A seconda che i centimetri siano a favore o contro della Juve, lascio perdere i mezzi metri, parlo solo di... ma non fosse altro per una cosa, io ho 50 anni, vado allo stadio da 40, le partite 30 anni fa, 20 anni, fino a 15 anni fa, veramente se ne vedevano di tutti i colori guardando le partite allo stadio, quando c'era solo la domenica sportiva che dava un minuto. Non fosse altro per il discorso adesso, che ci sono 40 telecamere o 50 telecamere, gli arbitri, non perché siano persone forse meglio di quelli di prima, ma costretti dalle telecamere, adesso veramente danno la sensazione a chi segue il calcio da tanto di arbitrare secondo quello che vedono, veramente in buona fede e con errori distribuiti non a seconda del colore della maglia. Questa almeno certo. È la sensazione che mi dà. Poi sbagliano ancora, ovviamente. Però... sbaglieranno sempre, Giorgio, difatti, però che la loro qualità, soprattutto degli assistenti, a parer mio, sia anche degli arbitri, se non altro per quanto si muovono e per quanto sono mediamente quasi sempre vicini all'azione oggi, a differenza di un tempo lo bello arrivava da 50-60 metri. Ma non solo lo bello, insomma, e ci provava, insomma, e magari spesso ci azzeccava, ma insomma, oggi gli arbitri sono lì, poi magari sbagliano in qualche caso perché sono troppo vicini, anche questo è già accaduto e accadrà ancora, però in particolare loro sono più bravi, gli assistenti sono più bravi, eccetera. Sai cos'è? È che gli strepiti sono sempre più forti, più grandi sono le squadre in questione. Ho questa mail firmata Massimo Tuffanelli da Bologna che fa notare come il putiferio delle ultime settimane non abbiano per esempio trovato riscontro domenica da parte dell'Udinese, che si è vista annullare un gol regolarissimo. Se parliamo degli ultimi minuti, domenica hanno annullato all'Udinese a Novara un gol molto regolare, hanno negato a parer mio rigore a Di Natale che c'era, non era così gigantesco ma c'era, a termini di regolamento c'era, però sì, a Udine magari non l'avranno nemmeno presa benissimo, ma non si è sentito nessuno degli strepiti che invece impazzano ad altre latitudini, no? Ma questa non era norma. Il Parma sì, qualcuno si è un po' lamentato, il presidente, qualcun altro nelle scorse settimane, ma dopo aver subito un paio di arbitraggi abbastanza nefasti consecutivi, in particolare quello di Genova, mi pare che tutto sommato sia stato tutto abbastanza contenuto. Sentiamo come il presidente della Juventus Agnelli ieri ha stretto giro di posta, ha interrotto il silenzio stampa. Un momento di riflessione l'ho trovato assolutamente corretto, in quanto se uno non può esprimere alcuni pensieri che abbiamo espresso in passato, e hanno provocato così tanta attenzione, così tanti commenti, abbiamo sostenuto che magari un giorno di riflessione avrebbe fatto bene. La riflessione è stata generale, sapevamo che riportare la Juventus al successo sarebbe stata un'operazione che avrebbe richiesto il profondere di uno sforzo importante. Lo stiamo facendo, quello che ci siamo resi conto, è che dobbiamo essere in grado di lottare contro tutto e contro tutti, consapevoli che però la nostra forza è sufficiente per ottenere risultati. Questa è la dichiarazione di ieri sera del presidente Agnelli. Ce ne sono altre da ascoltare, ma per esempio torniamo ieri a questa deliziosa cerimonia di San Siro dove Platini ha premiato Rivera come un fuoriclasse del calcio del passato. Scrive Lorenzo da Mestre: alla Juve ci siamo liberati di Amauri, che ai viola sta portando una sfiga incredibile, e abbiamo preso la sua perfetta controfigura Boriello. Lorenzo, occhio, sì è vero, cioè io condivido il messaggio, ma condivido il concetto, però attenzione ad Amauri, perché se Borriera era controfigura, Amauri sabato potrebbe fare l'originale, mi pare ci sia Fiorentina Juventus. Vi dicevo di questa investitura di grande prestigio che ieri Michel Platini ha fatto di Gianni Rivera, una generazione precedente alla sua. Platini è del 55, Rivera del 43, quindi una generazione qualcosa, insomma, prima della sua. Sentiamo il presidente UEFA. Gianni era uno che ragionava e tuttora ragiona sul calcio, uno che capiva di strategia, uno che leggeva la partita. Un calciatore cerebrale che sapeva già da piccolo che la palla viaggiava più veloce dell'uomo e quindi l'uomo deve partire prima della palla se vuole essere pronto a riceverla. Se la palla corre dritto, anche se non ti guardo, ti farò trovare la palla davanti a te. È vero? Aldo Madera scrisse che nel 90% dei casi Gianni raggiungeva l'obiettivo. È anche vero questo? Quando Gianni vinse il pallone d'oro nel 69 dopo la vittoria contro l'Ajax 4-1 in finale della Coppa Campione, il titolo di France Football diceva, parlando del regista del Milan, la classe allo stato puro. Beh, direi un ritratto molto lusinghiero. Infatti forse per la prima volta in vita mia, in un'occasione pubblica, ho visto Rivera vagamente commosso dopo queste parole di Platini. Ma signor Garanzini, ma il signor Rivera non è quello del calcio scommesse? Domanda Vladimiro, non metta in giro queste cose, non solo sono del tutto destituite di ogni fondamento, ma insomma in ogni campo, anche nello sport, che pure è il più lieve, insomma, un minimo di, come dire, background bisognerebbe averlo prima di intervenire, prima di parlare o anche soltanto di scrivere, così giusto per... So, Filippo mi intima, perché non dice finalmente che è un campionato falsato? Ebbene sì, Filippo, è un campionato falsato. Walter da Alessandria, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Io chiamo per parlare degli investimenti nel calcio. Ho sentito che il Palermo ha fatto arrivare gli arabi, bene. Poi io pensavo agli anni, fino agli anni 80, quando Capin dell'Adidas con l'Olympique Marsiglia, se ricordo bene, e Berlusconi in Europa furono i primi ad alzare l'asticella, quindi passare da 1 a 10 tutti quelli che erano gli stipendi per accaparrarsi i più grandi giocatori e farsi la loro fortuna. Quindi il calcio ha avuto un'esplosione in quegli anni, questa è storia, e sono abbastanza documentato, come tutti, insomma. Però è una cosa, mi viene da pensare, tra l'altro, riallacciandomi a quello che ha detto il dottor Ingroia ieri sera alla Zanzara, parlando così del glorioso Bacigalupo di Dell'Utri, mi viene da pensare, Tapini è stato arrestato, Bernard Tapie. Va bene, mi scusi, non sono francese. Berlusconi, vabbè, i soldi su cui ha fondato le vittorie del Milan, qualcuno gliel'ha mai chiesto? Tutto qua, giusto per dire che ognuno dovrebbe guardare la trave che ha nell'occhio. Buona giornata, grazie. Buona giornata a lei. Di Berlusconi ha parlato Cristiano Ronaldo pochi minuti fa nella conferenza stampa di vigilia del Real Madrid. Berlusconi aveva detto domenica di sognare in continuazione Cristiano Ronaldo al Milan. E questo gli ha risposto: anch'io faccio molti sogni, ma non sul calcio, su altre cose. Io, se Berlusconi dice di sognarmi, lo rispetto, ma io sto molto bene qui a Madrid e qui voglio rimanere. Dopodiché, Ronaldo era seduto di fianco a Mourinho in questa conferenza stampa. La domanda successiva è stata: che cosa pensa a Ronaldo che farà il prossimo anno Mourinho, dove andrà? E Ronaldo, guardandolo e sorridendo, voltandosi verso Mourinho e sorridendo, ha risposto: io penso proprio che resterà con noi. Deve essere il momento della mozione degli affetti dei campioni nei confronti dei loro allenatori, perché sentite cosa hanno detto ieri Messi prima e Iniesta poi. È uno spagnolo facilmente comprensibile, al massimo insomma, si può tradurre qualcosina alla fine. Un frammento di 20 secondi molto interessante a proposito del loro affetto per Guardiola. No, Guardiola, sin duda. Para mí es fundamental Guardiola en todo este proyecto del Barcelona. Es una cuestión del míster, del club y bueno, nos repetimos muchas veces. Estamos encantados con él y esperamos que esté mucho tiempo. Ese es el deseo de todos. Poco más se puede hacer o decir. Speriamo che stia qua il più tempo possibile, senza dubbio per noi è fondamentale. Il primo dei due che parlava con quella vocetta era Leo Messi e il secondo era Iniesta, due che magari con i microfoni possono avere qualche imbarazzo in più che non con un pallone da far correre o da far cantare, spesso e volentieri in campo. Poi Messi ha anche parlato di arbitri, ma magari lo sentiamo più tardi, a beneficio, no, di campionati falsati e dintorni. Lorenzo da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno signor Gigi. Dica. Quanto vorrei avesse beccato il pronostico su Amauri. No, non è un pronostico, era una risposta, è una risposta a un lettore juventino che dice: Amauri ha portato sfiga la Fiorentina. Aspetti per cautela, direi a questo tifoso juventino, e gli ho già detto: aspetti per cautela a dirlo domenica sabato sera alle 11. Ha detto giustissimo. No, io avevo telefonato per un'altra cosa. Io sentivo ieri sera Cesare Prandelli che parlava, anzi esortava a gran voce la tecnologia in campo, no? Dopo il discorso di Buffon e delle polemiche della Juventus. Io so che lei ha un po' di, fra virgolette, su questa cosa. Ecco, io volevo sapere proprio da lei però che noia potrebbe dare, diciamo, alla spettacolarità del calcio, comunque alla regolarità delle partite, non tanto la moviola, che anch'io sono contrario, però ecco un qualche congegno per poter evitare, diciamo, il gol fantasma. Ecco, tutto lì. Grazie, l'ascolto per radio. Lorenzo, il giorno che arriveranno a questo sarà sempre troppo tardi, avranno dormito per anni, perché se da anni è possibile vedere in tempo reale se un dritto di Federer o un rovescio di Nadal è dentro e fuori, se da anni hanno potuto stabilire, si può stabilire se il pallone portato da, facciamo Mirko Bergamasco, così mi faccio perdonare un po' dai rugbisti di prima, è stato schiacciato oltre la linea di meta, che non si riesca, che nel frattempo uno sport leggermente più popolare di questi, no? E più seguito nel mondo, e più diffuso, non sia stato in grado ancora di trovare modo di stabilire se un pallone è entrato o meno in una rete, direi che è grave, che è molto grave e quindi, ripeto, sarà sempre troppo tardi il giorno che questo accadrà. Si è unito anche Savi, mi informa Franco Piantalida della redazione, cioè per non restare indietro, no? Dei tre sfigatelli del Barcellona, Messi, Iniesta e Savi, ne mancava uno. Adesso Savi ha appena detto: noi non saremmo pronti a un addio di Guardiola al Barcellona. Renato ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Buongiorno. Io le volevo una sua opinione sull'intervista che è stata trasmessa ieri sera in una TV privata di Ibrahimovic, il rispetto che ha avuto nella giornalista. Non so se l'ha visto. No, grazie. No, ecco, sinceramente allora, frequento il meno possibile sia le TV private che Ibrahimovic soprattutto. Privata intendo dire Canale 5, a Striscia la Notizia. Ma allora non è tanto privata, ecco. ma in ogni caso... Non so se ha visto il rispetto proprio che ha avuto una giornalista, ha avuto proprio parole molto belle. Beh, ma sì, ma è un caso io che chiedo se questi giocatori, con tutti i soldi che prendono, giustamente. No, ma perché, guardi, mi scusi, ma perché deve essere una questione di guadagnare o non guadagnare? Cioè, uno può essere ricco e essere un gran signore, adesso le faccio sentire Messi tra un pochino, oppure uno può guadagnare un sacco di soldi e restare un burino come è sempre stato Ibrahimovic, ma insomma non è che Ibra sia diverso fuori dal campo rispetto a come è in campo, è un prepotente, è un gradasso, lo è sempre stato, e come lo è con i difensori avversari, soprattutto quando gli parte la famosa brocca, come si dice da certe parti, e alla stessa maniera gli parte fuori dal campo. Io devo dire che non ho visto questa cosa di ieri sera, mi è stato riferito da fonti degne di fede che insomma, le domande di questa giornalista erano state leggermente insistenti, no? Leggermente fastidiose, e io posso anche capire che alla quinta o alla sesta volta che ti senti fare la stessa domanda, sempre con un tono vagamente insinuante o con risposta sottintesa incorporata, ti possa anche scappare un minimo la pazienza. A me personalmente scappa per molto meno, però questo no, ovviamente non solo non giustifica, ma non non ammette proprio una reazione di quel genere pubblica davanti a una telecamera. Al massimo non si risponde e si chiede all'interlocutrice se per caso ha esaurito le batterie, oppure se si è incantato il disco, oppure se non avrebbe altri argomenti, ma certamente non è ammissibile una reazione così villana, ma così gradassa proprio. Come è questo giocatore, ripeto, dentro e fuori del campo? È una resipiscenza, speriamo per lui e per la Juve che non sia tardiva, ma Lorenzo da Mestre scrive: ha ragione, mi sono gufato da solo, adesso sabato sera Mauri ce ne fa due, adesso due mi sembrano tanti, però attenzione perché Mauri non segna da mesi, no, insomma, evidentemente è una gag, però sono contento Lorenzo che abbia riflettuto, forse in maniera leggermente tardiva, sul fatto che bisogna evitare di tirarsene perlomeno. A Mauri può diventare, per la Juve può diventare una cessione felice, una liberazione dopo sabato sera. Al momento io mi accontenterei di festeggiare, non so, la partenza di Toni, faccio per dire, no? E poi prima di festeggiare anche quella di Iaquinta, aspetterei di vedere quando giocano Juventus Cesena. Sentiamo Nicola Filippone che cosa ha scovato per il 13 di marzo. Sembra ieri. 13 marzo 1960. Gipo Viani siede per la seconda e ultima volta sulla panchina della nazionale. L'occasione è un amichevole allo stadio Montjuic di Barcellona contro una Spagna stellare allenata da Elenio Herrera, che schiera Di Stefano, Suarez e Gento. L'Italia parte bene e passa al 39esimo con il viola Loiacono, che poi si infortuna lasciando il posto all'atalantino Ronzon, debuttante, al pari del romanista Losi. Nella ripresa le furie rosse crescono e assumono il controllo del gioco fino a ribaltare il risultato. La rimonta porta le firme di Vergès, Di Stefano e Martinez. Con la sconfitta di Barcellona si chiude, dopo 28 partite, l'avventura in nazionale del difensore juventino ed ex della Fiorentina Sergio Cervato. Beh, insomma, la suggestione di una partita di una Spagna-Italia con su una panchina, quella spagnola, Elenio Herrera, che da lì, insomma, tre mesi dopo sarebbe arrivato in Italia a guidare l'Inter, e su quella dell'Italia temporaneamente, molto provvisoriamente, Gipo Viani, che poi in coppia con Rocco avrebbe guidato da lì a tre mesi, a sua volta a quattro mesi, la nazionale olimpica alle Olimpiadi di Roma, per poi tornare a fare il general manager al Milan, che era il suo vero mestiere, e assumere Rocco in arrivo da Padova. Ha chiamato Pietro da Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno dottore. Ma secondo lei, un'informazione, secondo lei questo campionato è un campionato mediocre o un campionato un po' equilibrato? Molto mediocre, a parer mio. È molto mediocre, ecco. Molto mediocre, ma questa è evidentemente un'opinione, perché vedo giocare partite davvero di qualità abbastanza scadente a squadre, ma adesso intendiamoci, non l'Udinese di domenica, per l'Udinese quello che ha fatto fino a qui in campionato in Coppa è persino troppo, no? Considerando anche i giocatori che non ha avuto, chi aveva ceduto in estate, eccetera. Però non so, è vero che la Lazio domenica aveva tanti assenti e tanti infortunati, però insomma, spesso e volentieri si vede giocare proprio abbastanza male. L'Inter è sesta e ha giocato sino a qui un calcio veramente di un livello bassissimo. La Roma è quinta, mi pare. Beh, insomma, la Roma dalla cintola in giù è qualcosa di penoso. No, nonostante gli sforzi e i tamponi di De Rossi, è qualcosa di penoso nella sua fase difensiva, sia come scelta di uomini che come spregiudicatezza di modulo. Se poi arriviamo alle ultime tre o quattro, soprattutto alle ultime due della classifica, con tutto rispetto per il Cesena e il Novara, ma insomma, anche perché non riguarda solo loro, ci si domanda veramente perché non si torna a un campionato a 18 e possibilmente a 16 squadre, insomma. Grazie Pietro. Dunque, la vigilia dell'Inter, nelle parole di Ranieri. La squadra sta in salute, è forte, è determinata, ha saputo reagire a un momento negativo e adesso abbiamo l'opportunità di andare avanti in Champions League. Non sarà facile perché l'OM è una buona squadra, però noi siamo determinati a passare il turno. Ci sarà lo stadio pieno, ci soffieranno dietro. Per cui questa squadra non tradirà. E questo era Ranieri. Poi vediamo se c'è spazio anche per un breve frammento di Deschamps. Ma stavo leggendo un messaggio che mi intriga molto. Max da Torino scrive: ma il quarto uomo ha senso che stia lì ad alzare una lavagnetta due volte a partita e a guardare se l'allenatore esce dal rettangolo? No, secondo me così non ha molto senso. In effetti, no, ho detto più di una volta che il quarto uomo è lì a fare poco più del vigile urbano, o perlomeno era lì a fare poco più del vigile urbano, perché adesso è diventato invece il principale bersaglio degli allenatori, ma non solo in Italia, anche all'estero. Si vede spesso quando quando la regia stacca all'improvviso, si vede che, non dico sempre, ma quasi sempre, c'è uno dei due allenatori che sta battibeccando col quarto uomo. Allora, veramente ci si domanda se sia una tattica, se sia un modo, un sistema di pressione, se sia, perché credo che sia veramente fastidioso, oltre che abbastanza privo di senso, no? Vedere che comunque un giudice di gara che è continuamente disturbato da questi, che per carità avranno anche tanta adrenalina da dover smaltire in quei momenti, ma non si capisce bene perché gli debbano impedire di seguire una partita ed eventualmente di collaborare con l'arbitro principale, distraendolo in continuazione con le loro proteste, con i loro commenti, si vede davvero continuamente. Domenico, provincia di Messina, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie Garantini. Anch'io sono di parte, quindi mi auguro che Amauri sabato faccia il bravo. Sì. Le volevo rivolgere due domande. Secondo lei qual è il limite giusto da cui una squadra ci si può incominciare a lamentare? E per lei giustifica il Parma? E poi la seconda domanda qual è il limite giusto? Il limite perché lei ha giustificato praticamente le lamentele del Parma e il silenzio stampa del Parma. Non ho giustificato nulla, ho detto che rispetto ad altri si sono certamente comportati meglio, loro, l'Udinese domenica. Le faccio sentire, guarda, le faccio rispondere da uno che non è capace a giocare a pallone, faccio rispondere a Leo Messi tra poco, d'accordo? L'ultimo tempo se le puso la cosa molto difficile all'arbitro porque continuamente se está hablando de ello, para bien o para mal, están todo el día en lo diario, en la tele, y es muy difícil para ellos. Ya es difícil el trabajo de ellos normalmente y mucho más teniendo toda esa presión que viene. Sta dicendo Leo Messi, è già difficile far l'arbitro in campo con tutta la pressione con cui arrivano a dover fare i conti con le azioni che devono valutare, con noi giocatori, con i nostri atteggiamenti, eccetera. Pensate poi a tutta la pressione che c'è di fuori e al fatto che, non ha detto testualmente così, ma insomma il senso era che come si muovono sbagliano, no? E quindi pensate un po' che razza di mestiere è questo. Piero ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, anch'io sono di parte. Riguardo a Mauri, è normale, darà l'anima per far gol alla Juve, cioè, è come è normale che sia, no? Deve dimostrare che la Juve si è sbagliata. Speriamo che lo faccia, ma è normale, è giusto che sia. Beh, certo, è normale che sia così. Poi la verità è che la Juve ci ha visto benissimo, sei per quello fino adesso, però hai visto mai che invece nell'occasione più attesa e invece riesca a dimostrarglielo, ma fin qui siamo nella norma. Io mi volevo usare un termine che qualche volta ha usato anche lei, no? Di due indizi fanno la prova. Non è per, cioè, io mi ricordo uno sfogo analogo da quello di Conte che fece del Neri l'anno scorso, non so se si ricorda, che disse che era di che aveva già pagato. Ecco, voglio dire, è ripetitiva la cosa, da Conte magari è Juventino dentro e quindi è meno comprensibile, però qui la cosa si ripete più volte, non so lei cosa, cioè, capisco che può essere stucchevole, però insomma effettivamente bisognerebbe, insomma, io credo che vorrei sapere quella cosa, ecco. Quando, in giornata certo. Dica lei. No, dico, ripeto quello che ho detto prima, obbedendo all'SMS di Filippo che mi aveva scritto: dica che è un campionato falsato. Ho detto, è un campionato falsato, evidentemente. Tutti l'hanno capito, e mi meraviglio di lei. Piero, grazie a tutti, grazie a Franco Piantanini in redazione, a Nicolò Rinaldi in regia. Squalifica sospesa a Mazzarri, ultimo istante, domani sarà in panchina sul campo del Chelsea. Buon pomeriggio.